evidentemente l'Iran non l'ha presa bene, perché questa guerra per procura che si combatte in territorio iracheno tra Iran e Stati Uniti sta veramente colpendo gli interessi iraniani. Prima di tutto c'è stata una risoluzione del Parlamento iracheno che ha chiesto l'espulsione delle truppe degli Stati Uniti presenti in territorio iracheno, si tratta di oltre 5.000 uomini. Evidentemente questa decisione non è stata accolta dal sistema settario iracheno in maniera unanime. Per esempio, una delle figure più importanti sciite, Muqtada al-Sadr, addirittura ha chiesto di cancellare completamente qualsiasi accordo militare con gli Stati Uniti. Trump, che è poi il presidente degli Stati Uniti, che ha voluto in prima persona questo raid mirato che ha portato all'uccisione di Qassem Soleimani, ha immediatamente risposto che nel caso delle truppe degli Stati Uniti venissero espulse dall'Iraq, verranno imposte durissime sanzioni contro questo paese. Ricordiamo, il paese che è stato duramente attaccato da questa disastrosa guerra del 2003, che ha portato alla fine del regime di Saddam Hussein, ma anche a grave instabilità politica e alla costruzione di un sistema settario che prevede quindi la divisione del potere tra sunniti, sciiti e curdi, che è stato messo duramente alla prova dalle proteste che si sono svolte nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, proprio contro la presenza degli Stati Uniti in Iraq e anche contro le influenze iraniane nel paese. Pensiamo per esempio agli attacchi che ci sono stati al consolato iraniano di Najaf. Questo significa che tutta la strategia politica di politica estera degli Stati Uniti di esportazione della democrazia, che era stata voluta da Bush e poi è stata continuata negli ultimi anni, è completamente fallimentare. Evidentemente dimostra che anche l'imposizione di sistemi settari, per esempio nel caso iracheno sul modello del sistema libanese, anche questo lascia il tempo che trova, perché poi si dimostrano non efficienti, efficaci per gestire il sistema politico locale, nel caso iracheno, che poi ha anche altri problemi molto radicati come corruzione, disoccupazione, nepotismo, divisione tra le elite politiche del sistema, dei sistemi economici e finanziari, quindi tribalismo di Stato, come un po' viene definito da tutti il sistema iracheno. L'altra domanda, oltre allo scenario iracheno, è se l'Iran si è indebolito dopo questo attacco che ha causato l'uccisione del generale Qassem Soleimani, che ricordiamo era il comandante in capo delle milizie al-Quds, che sono delle milizie che hanno avuto un ruolo essenziale da una parte nello sconfiggere lo Stato Islamico, comunque nel limitare molto la presenza dello Stato Islamico in Siria e in Iraq, e dall'altra continua ad avere, ad essere una sorta di longa manus che l'Iran ha nella regione, perché l'Iran è un paese importante in tanti scenari locali come l'Iraq, come la Siria, come lo Yemen, l'Afghanistan. Per esempio esiste un partito sciita libanese, Hezbollah, che si rifà al modello iraniano. Esistono anche altri partiti, per esempio Hamas, che è un partito sunnita, che però si rifà alla scuola, comunque ha un riferimento ideologico alla rivoluzione iraniana del 1979. Ecco, questo attacco ha indebolito l'Iran. Evidentemente l'Iran si è svegliato dopo l'uccisione di Soleimani più vulnerabile di prima, perché questo ruolo regionale così importante che ha avuto è stato sostanzialmente ridimensionato. L'Iran anche non può fare molto su questo, perché non vuole che ci sia una guerra che potrebbe portare a mettere in discussione completamente il sistema post-rivoluzionario. Questo poi è stato un attacco, come un colpo molto duro per i conservatori, cioè per gli uomini politici che si rifanno alla leadership di Khamenei, ma che si rifanno anche a una delle figure più importanti dell'establishment politico iraniano dopo la rivoluzione del 79, cioè l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Se però vogliamo vedere nel termine più lungo, o anche una visione un po' più globale del ruolo iraniano nella regione, ricordiamo di questo grande Iran, cioè di un paese che è centrale per le sorti dei suoi paesi vicini, la posizione di privilegio delle milizie iraniane nella regione, che è molto più forte rispetto anche alla posizione strategica degli Stati Uniti, non verrà probabilmente messa in discussione da questo attacco, perché Al-Quds e le altre milizie, gli altri gruppi volontari che si rifanno all'Iran, hanno una posizione di vantaggio talmente forte nella regione che questo attacco non scalfirà questa posizione. Ricordiamo che subito dopo la morte di Qassem Soleimani è stato nominato il suo successore Ismail Khani, che anche lui fa parte di una componente conservatrice, quindi vicina al suo predecessore, e quindi sostanzialmente il ruolo iraniano nel lungo termine non dovrebbe essere inficiato da questo attacco. Ricordiamo poi quello che è successo invece da un punto di vista di politica interna in Iran, perché la morte di Soleimani ha portato ad una ondata di unità nazionale. Ieri ci sono stati funerali che hanno coinvolto tre città, Qom, Teheran, Mashhad e poi Kerman, che è la città dove verrà seppellito, dove è stato seppellito Soleimani. Ci sono state una partecipazione di massa con milioni di persone che hanno partecipato a questi funerali di una figura carismatica che più volte ha subito tentativi di attacco attentati già nel 2006, nel 2012, ed è scampato senza essere colpito da raid che volevano vederlo morto. Altre due implicazioni: una è quella che più viene richiesta in queste ore agli analisti, se questa uccisione provocherà un'escalation, cioè un conflitto aperto tra Stati Uniti ed Iran. È abbastanza improbabile che questo succeda, abbiamo detto, perché gli iraniani non lo vogliono, ma anche gli Stati Uniti. Ricordiamo che come consigliere della sicurezza nazionale c'è Robert O'Brien e non Bolton, che era invece un falco che voleva più di tutti la guerra contro l'Iran. E l'altra questione è quella dell'accordo sul nucleare, che gli iraniani hanno deciso di stracciare dopo questo attacco. Ma ricordiamo, questo accordo sul nucleare ormai è la carta straccia da tempo, perché gli Stati Uniti nel 2018 sono usciti dall'accordo sul nucleare siglato a Vienna nel 2015 in maniera unilaterale, e questo ha provocato nuove sanzioni contro i paesi che continuavano a fare affari con l'Iran, e la cancellazione delle sanzioni ai paesi che invece potevano fare affari con l'Iran. Pensiamo anche all'Iraq, che era uno dei paesi che più si è avvantaggiato di queste esenzioni, e evidentemente quindi questo significa una cosa sola, cioè che l'accordo sul nucleare non c'è più. L'Iran sta riprendendo l'arricchimento dell'uranio anche a livelli superiori a quelli precedenti al raggiungimento dell'accordo. La questione più importante a questo punto è che bisognerà rinegoziare un nuovo accordo, e finalmente alcuni paesi, per esempio i paesi dell'Unione Europea, potrebbero avere un ruolo in questa rinegoziazione, che è un ruolo che finora non hanno avuto, perché si sono semplicemente accodati alle decisioni che sono state prese dagli Stati Uniti in merito alla questione dell'accordo sul nucleare. Sì, altri attori internazionali come la Russia o l'Europa possono giocare un ruolo in questa vicenda? La Russia si è mostrata vicina all'Iran, e evidentemente questo continuerà. Pensiamo che la Russia ha un ruolo importante nella stabilizzazione della Siria, e anche l'Iran ha lo stesso obiettivo. Questo attacco sicuramente ha fatto gli interessi di altri attori regionali, per esempio di Israele, che ha sempre visto di cattivo occhio la posizione iraniana nella regione. Ricordiamo le parole di Netanyahu, che ha tuonato nel congresso degli Stati Uniti contro il raggiungimento di un accordo sul nucleare con l'Iran, e quindi evidentemente l'eliminazione di Soleimani ha fatto gli interessi israeliani. Gli altri paesi che si sono avvantaggiati di questo attacco sono l'Arabia Saudita e i paesi del Golfo, che se l'Iran perde il suo ruolo centrale in Iraq e nella regione, guadagnano maggiore visibilità, maggiori possibilità. L'Unione Europea ha fatto molto poco, può fare molto poco, nel senso che non ha mai mostrato una posizione unita nei confronti del regime iraniano. Ci sono state delle prese di posizioni molto dure contro l'attacco di Trump da parte di Macron, del presidente francese, del leadership della Gran Bretagna, di Merkel in Germania. Per esempio l'Italia non ha assunto un ruolo rilevante in questo contesto, ma già da tempo l'Italia non è parte dei negoziati per il raggiungimento dell'accordo, di un raccordo sul nucleare con l'Iran, quindi evidentemente è stata esclusa da tempo da questo tavolo negoziale. Ricordiamo che l'ex alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini, era stata molto dura nei confronti delle critiche che venivano mosse all'Iran per il mantenimento dell'accordo sul nucleare, tant'è vero che era stato creato un sistema Instex per bypassare le sanzioni da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, ma evidentemente poi l'Unione Europea non ha concretizzato nessuna di questi punti, di queste decisioni, in un mantenimento saldo delle premesse, delle esenzioni dalle sanzioni nei confronti dell'Iran, che poi sono stati tra le principali cause della crisi economica nel paese, che ha portato alle proteste degli ultimi mesi, e che questa volta, in questo momento, probabilmente non avranno più senso di esserci, proprio perché il paese sembra ricompattarsi intorno ai suoi leader politici. Ricordiamo un'ultima cosa, che uno degli obiettivi che è stato citato da Trump dovrebbe essere attaccato nel caso in cui si va su una vera e propria guerra tra Stati Uniti e Iran, sono i siti storici, i siti archeologici. Evidentemente, come anche ha risposto a questi tweet di Trump Javad Zarif, cioè il ministro degli esteri, il capo negoziatore sul nucleare, questo va contro il diritto internazionale. In generale l'attacco degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran va contro il diritto internazionale, quindi evidentemente ci troviamo in un contesto in cui il caos regna sovrano, ma che non provocherà, almeno fino a questo momento, un conflitto su larga scala che potrebbe essere disastroso per le sorti del Medio Oriente.